Sentava suonatore da zampogna, a sentire sti belli passati, va suona lo fagiolo che parte di tronca, e o tamburello batte, Nino Mangiola, un chiamo gioco sanatore!